quanto la mia gelosia mi induceva a lasciare Albertin il meno possibile, anche se sapevo bene che non ne sarei guarito del tutto finché non mi fossi separato per sempre da lei. Potevo provarla anche standole accanto, ma allora facevo in modo di evitare il ripetersi della circostanza che me l'aveva ispirata. Un giorno di bel tempo, per esempio, andammo a fare colazione a Rivebelle. Le grandi porte vetrate della sala da pranzo, della hall a forma di corridoio dove veniva servito il tè, s'aprivano direttamente sui prati dorati dal sole, dei quali il vasto ristorante luminoso sembrava far parte. Il cameriere, dal volto roseo, dai capelli neri attorcigliati come una fiamma, percorreva quella vasta distesa con meno slancio d'un tempo, perché non era più un semplice aiuto, ma responsabile d'un gruppo di tavoli. Non di meno, per effetto della sua attività naturale, a volte un po' lontano, nella sala da pranzo, a volte più vicino, ma fuori, mentre serviva i clienti che avevano preferito far colazione in giardino, lo si vedeva un po' qui, un po' là, come statue successive d'un giovane dio in corsa, alcune all'interno, d'altronde ben illuminato, di una dimora il cui prolungamento era costituito da verdi prati all'inglese, altre sotto le foglie, nella luce della vita all'aperto. Fu per un istante accanto a noi. Albertin rispose distrattamente a quel che le dicevo. Lo guardava a occhi spalancati. Per qualche minuto sentii che si può essere al fianco della persona amata e tuttavia non averla con sé. Sembrava che i due fossero immersi in un colloquio intimo e misterioso, reso muto dalla mia presenza, preceduto forse da vecchi appuntamenti che non conoscevo o semplicemente da uno sguardo che lui le aveva lanciato e dove io ero il terzo incomodo, quello da cui ci si nasconde. Anche quando, richiamato bruscamente dal suo capo, si allontanò, Albertin, pur continuando a mangiare, dava l'impressione di considerare il ristorante e i giardini solo come una pista illuminata sulla quale appariva qua e là, su sfondi diversi, il dio corridore dai capelli neri. Mi chiesi fugacemente se Albertin, per seguirlo, non m'avrebbe lasciato solo al mio tavolo. Ma dai giorni successivi cominciai a dimenticare per sempre quell'impressione penosa, perché avevo deciso di non andare più a Rivebelle e m'ero fatto promettere da Albertin, la quale m'assicurò di non esserci mai stata prima, che non ci sarebbe ritornata. E negai che il cameriere dagli agili piedi avesse avuto occhi solo per lei, affinché non credesse d'essere stata privata d'un piacere a causa della mia presenza. Mi capitò qualche volta di tornare a Rivebelle, ma da solo e come già in precedenza, di bere troppo. Vuotando un'ultima coppa, guardavo un rosone dipinto sul muro bianco. Riversavo su di esso il piacere che provavo. Non c'era altro al mondo per me. Lo inseguivo, lo sfioravo e lo perdevo via via con lo sguardo fuggente ed ero indifferente all'avvenire, accontentandomi del mio rosone come una farfalla che gira attorno a una farfalla posata, con la quale finirà la sua vita in un atto di suprema voluttà. Mi sembrava pericoloso lasciare che dentro di me, sia pure in forma leggera, si insediasse un male simile a quegli stati patologici abituali ai quali non si bada, ma che, se dovesse sopravvenire una sia pur minima difficoltà, imprevedibile e inevitabile, contribuiscono a fargli improvvisamente assumere una gravità estrema. Era forse il momento più propizio per rinunciare a una donna cui nessuna amarezza davvero recente e viva mi costringeva a chiedere il balsamo contro la sofferenza posseduto dalle donne che l'hanno provocata. A calmarmi erano quelle stesse passeggiate, le quali, sebbene non le considerassi al momento che come attesa di un domani che a sua volta, malgrado il desiderio che mi ispirava, non sarebbe stato diverso da oggi, avevano il fascino d'essere strappate a luoghi dove Albertine era stata fino allora e io non ero con lei, a casa di sua zia, delle sue amiche. Fascino non d'una gioia positiva, ma solo del sopimento di un'inquietudine, e tuttavia assai forte. Infatti, trascorsi alcuni giorni, quando ripensavo alla cascina davanti alla quale avevamo bevuto del sidro, o semplicemente ai pochi passi fatti insieme davanti a Saint-Mère-le-Vieux, ricordando che Albertine camminava al mio fianco sotto il suo cappellino, il senso della sua presenza aggiungeva di colpo un tale valore all'immagine indifferente della chiesa nuova che, nell'istante in cui la facciata rischiarata dal sole s'affacciava da sola nel mio ricordo, era come un grande impacco calmante che m'avessero applicato sul cuore. Lasciavo Albertina a Parville, ma per rivederla la sera e andare a stendermi al suo fianco, nell'oscurità, sulla spiaggia. Non la vedevo ogni giorno, certo, e tuttavia potevo dire a me stesso: se raccontasse come passa il suo tempo, la sua vita, sarei pur sempre io a occupare lo spazio maggiore. E trascorrevamo insieme lunghe ore filate, grazie alle quali c'era, nelle mie giornate, un'ebbrezza così dolce che nemmeno quando, a Parville, lei saltava giù dall'auto che l'avrei mandata un'ora dopo, io mi sentivo solo nella vettura, proprio come se, prima di scendere, lei ci avesse posato dei fiori. Avrei potuto fare a meno di vederla ogni giorno. L'avrei lasciata sentendomi felice. Ero certo che l'effetto calmante di quello stato sarebbe potuto durare parecchi giorni. Ma, proprio in quell'istante, udivo Albertine ricordare, lasciandomi, alla zia o a un'amica: «Allora domani, alle 8:30, non bisogna arrivare in ritardo, saranno pronti alle 8:15». La conversazione d'una donna amata assomiglia a un terreno che copre un'acqua sotterranea e pericolosa. S'avverte di continuo, dietro le parole, la presenza, il gelo penetrante d'una falda invisibile. Si vede qua e là una traccia del suo perfido stillicidio, ma l'insieme rimane nascosto. Avevo appena udito la frase di Albertine e già la mia calma era distrutta. Pensavo di chiederle un incontro per la mattina dopo, impedendole così di recarsi a quel misterioso appuntamento delle 8:30 a cui si era, in mia presenza, solo accennato. Le prime volte mi avrebbe certamente obbedito, rammaricandosi, tuttavia, di dover rinunciare ai suoi progetti. Poi avrebbe scoperto il mio permanente bisogno di ostacolarli. Sarei diventato quello per cui si fa tutto di nascosto. E d'altra parte è probabile che quelle feste da cui ero escluso consistessero in ben poca cosa e che fosse magari per paura che io trovassi volgare o noiosa una certa invitata che non si invitava anche me. Purtroppo, quella vita così intrecciata alla vita di Albertine non agiva soltanto su di me. A me dava uno stato di calma, a mia madre procurava delle inquietudini la cui confessione lo distrusse. Una volta che tornavo in albergo contento, deciso a chiudere da un giorno all'altro con quell'esistenza la cui fine credevo dipendesse dalla mia sola volontà, mia madre mi disse, sentendo che facevo ordinare all'autista d'andare a prendere Albertine: «Quanto denaro spendi?» Françoise, nel suo linguaggio semplice ed espressivo, diceva con più forza: «I soldi volano via!» «Cerca», continuò la mamma, «di non diventare come Charles de Sévigné, di cui sua madre diceva: la sua mano è un crogiolo dove l'argento delle monete fonde. E poi credo che tu sia davvero uscito a sufficienza con Albertine. Ti assicuro che è un'esagerazione, anche per lei può sembrare ridicolo. Mi ha fatto infinitamente felice che questo potesse distrarti. Non ti chiedo di non vederla più, ma che insomma non sia impossibile vedervi l'uno senza l'altra». La mia vita con Albertine, una vita priva di grandi piaceri, almeno di grandi piaceri di cui fossi consapevole, quella vita che contavo di cambiare da un giorno all'altro, scegliendo un'ora di calma, mi ridiventò di colpo e per qualche tempo necessaria quando si trovò, da queste parole della mamma, ad essere minacciata. Dissi a mia madre come le sue parole avessero ritardato di forse 2 mesi la decisione che sollecitavano e che in loro assenza sarebbe stata presa entro la fine della settimana. La mamma si mise a ridere, per non rattristarmi, dell'effetto istantaneamente prodotto dai suoi consigli e mi promise di non riparlarmene per non contrastare la rinascita dei miei buoni propositi. Ma da quando era morta la nonna, ogni volta che la mamma si lasciava andare a ridere, la risata s'arrestava di colpo e finiva in un'espressione quasi singhiozzante di sofferenza, o per il rimorso d'aver potuto per un istante dimenticare, o per la recrudescenza con cui quel brevissimo oblio aveva ravvivato il suo cruccio crudele. Stavolta, poi, a quello provocatole dal ricordo della nonna, radicato in mia madre come un'idea fissa, sentii che se ne aggiungeva un altro concernente me, le conseguenze che mia madre temeva dalla mia intimità con Albertine, intimità alla quale, tuttavia, non osò opporsi in considerazione di quanto le avevo appena detto. Ma non sembrò persuasa che io non fossi in errore. Ricordava per quanti anni la nonna e lei non m'avessero più parlato del mio lavoro ed una regola di vita più igienica che, a mio dire, solo l'agitazione in cui mi mettevano le loro esortazioni mi impediva di abbracciare e che, malgrado il loro obbediente silenzio, non avevo affatto instaurata.